Continuiamo il nostro spazio agenda Atti e Misfatti. Siamo ora al telefono con una compagna del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario da Taranto. Ciao, ci senti? Ciao, perfetto. Eccoci. Senti, volevamo chiederti di fare, diciamo, un punto sulla situazione, sul processo contro gli stupratori di Carmela. Carmela Cirella è una ragazza, una ragazzina, una bambina che nel 2006 è stata stuprata da vari uomini e che in seguito a questa orribile violenza, in seguito anche al fatto che appunto non riusciva a essere creduta da nessuno, si è uccisa. Ci vuoi raccontare intanto meglio di come l'ho raccontata io la storia di Carmela? Diciamo che è una storia, anche se è un'età molto giovane, una storia purtroppo lunga, che il padre l'ha molto ben raccontata in tutte le sue varie sfaccettature, proprio in un libro che si chiama Io so Carmela, 13 anni, è violentata dagli uomini, uccisa dallo Stato, come noi dall'inizio stiamo dicendo. È una storia lunga perché questa ragazzina, bambina, veramente ha dovuto subire di tutto. Chiaramente era una ragazzina ribelle, insomma, no? Per cui andava via di casa, scappava di casa, scappava dalla scuola, reagiva ad ogni minima contrasto, attacco verso di lei, anche nella scuola, eccetera. Che è chiaro che quando è così subito viene etichettata, sia dalla scuola sia dal psicologi, assistenti sociali, che subito intervengono, non certo per aiutarla, ma appunto no, per in un certo senso cioè colpevolizzarla e trovare quelle soluzioni tra virgolette che invece di diciamo di proteggerla diventano, no, poi una spirale senza fine in questa situazione di punizione, di repressione, di repressione, di non crederle, di considerare lei di elemento disturbato, elemento psicologicamente danneggiato, e quindi invece di crederle, invece di aiutarla, di intervenire sulle varie episodi di violenza che poi le sono accaduti dal 2006 fino praticamente dall'estate 2006, c'è stato le prime molestie sessuali, poi in particolare nel novembre 2006 quando lei scappò nuovamente ha dovuto subire stupri più di una volta, prima da alcuni minorenni, poi da tre che attualmente sono imputati nel processo in corso. Ma come giustamente anche ha denunciato il padre, il problema qui è che oltre questi stupri veramente orrendi, perché fatti su una quasi bambina, il problema è che poi c'è tutto l'aspetto delle istituzioni, sia durante, quando Carmela era ancora in vita, e c'è una descrizione da parte del padre di come non portavano avanti le indagini i carabinieri a cui i genitori si rivolgevano, di come avevano un atteggiamento molto comprensivo anche cioè verso gli stupratori, anche quando li fermavano, li venivano portati in questura. Poi tutta la vicenda dei servizi sociali, della comunità, che ha usato sempre i metodi del controllo, di riempirla di psicofarmaci, di tenerla rinchiusa, eccetera. Quindi questo, diciamo, no, in questo senso, violentata dagli uomini e uccisa dallo Stato, perché Carmela il 15 aprile 2007 si butta dal balcone di un quartiere qui a Taranto, dopo che i suoi erano andati a prenderla, perché era Pasqua, era lì vicino, insomma da lì a pochi giorni, a prenderla da una comunità, e lei non voleva ritornarci. Quindi loro era stata reclusa in una comunità. Sì, e diciamo 5 mesi dopo comunque le violenze, gli stupri a di novembre, appunto lei si è uccisa. C'è anche un diario, no, che lei teneva. Certo, c'è un diario che lei teneva, che poi è stato, dopo la sua morte, è stato scoperto anche dagli stessi genitori, e proprio nell'udienza che c'è stata l'8 febbraio, in cui sono stati sentiti alcuni testi, sia Carabinieri sia una ginecologa e anche altri, stanno venendo fuori conferme dei fatti, degli episodi che Carmela aveva descritto nel suo diario. Quindi questo, no, proprio è un atto di accusa contro chi invece non le credeva. Tra l'altro avevano questi degli assistenti sociali, il tribunale, eccetera, avevano un atteggiamento anche molto brutto verso i genitori, verso il padre in particolare, cioè tenendoli fuori. Da un lato dicevano, no, vi informiamo, vi teniamo, no, sempre in relazione con Carmela, dall'altro invece li tenevano lontani, non li informavano. E ci sono decine, no, di fatti e di episodi che attestano come, insomma, no, questo, che il fatto che questo Stato non può mai assolutamente difendere le donne dagli stupri, dagli stupratori, ma è lo Stato il problema, non è la soluzione. È chiaro. Senti, a proposito di Stato, il processo va avanti dal 2006, quindi insomma sono passati più di 6 anni. C'è stata un'udienza lo scorso 8 febbraio, sì, in cui insomma, vogliamo dirla questa cosa, vogliamo raccontarla, uno degli stupratori, di nome Massimo Carnevale, perché sì, insomma è sempre importante farlo, certo, aveva certo chiesto che l'udienza, che la sede del processo fosse spostata da Taranto, perché appunto a Taranto c'eravate voi che sì, udienza, sì, in udienza avete scelto di scendere sempre in piazza, di essere lì presenti, e quindi sussistevano gravi situazioni locali che turbavano il regolare svolgimento e così via del processo. Sì, sì, no, diciamo proprio l'8 febbraio invece c'è stata, abbiamo saputo della decisione della Corte di Cassazione che ha respinto la richiesta di trasferimento da Taranto del processo. Addirittura questo, no, aveva osato dire che lui era, diciamo, temeva per la sua sicurezza ed incolumità, che lui era, poveretto, costretto a andare in tribunale, venire in tribunale quasi camuffato per celare la sua vera identità, per paura, eccetera, insomma. Come dire, no? Il problema è che vabbè, a parte che se veramente avesse paura, siamo anche contenti, noi vogliamo che gli stupratori abbiano paura, purtroppo non la hanno da parte ciò che servirebbe, da parte della magistratura, dei giudici, ma vediamo l'esempio dell'Aquila, purtroppo, a cui tra l'altro alcune di noi da Taranto sono state all'Aquila, all'ultimo processo dell'Aquila. quindi non l'hanno o non possono avere paura dai giudici, dallo Stato, la devono avere paura dalle donne. E quindi però è stata respinta questa richiesta. Nell'udienza dell'8 sono stati sentiti alcuni carabinieri che avevano fatto le indagini nei giorni della scomparsa di Carmela, nel senso che era scappata dalla comunità e nei giorni in cui aveva subito degli stupri, e una ginecologa, e ora è stato fissato due udienze ravvicinate il 21 giugno e poi a luglio, fine luglio, per concludere il dibattimento, cioè i testi, e poi a settembre ci dovrebbe essere la sentenza. Diciamo che noi chiaramente vogliamo, siamo ad ogni processo insieme al padre, cosa, perché vogliamo il massimo della pena, anche se le precedenti esperienze non ci fanno affatto ottimiste su questo, perché degli stupratori minorenni che hanno avuto una sorta di perdono, una messa in prova, che in realtà non neanche hanno fatto, non come messa in prova, e questi qua, gli adulti, cioè il processo va avanti da anni e ancora non si riesce a concludere. Voi comunque a giugno, a luglio, insomma a settembre, voi continuate ogni volta a essere presenti fuori, certo, dal tribunale? Certo, perché tra l'altro noi insieme anche al padre abbiamo fatto denunce, vogliamo che ci si apra un'inchiesta, un processo proprio contro i servizi sociali, contro le istituzioni, contro insomma chi ha portato poi Carmela a suicidarsi. Quindi è chiaro che noi saremo, diciamo che nel processo finale, nell'udienza finale di settembre, crediamo che sia necessario anche realizzare una presenza anche maggiore, insomma, no, delle donne. Tutta Italia. Certo, sicuramente possiamo insieme lavorare a che questo sia possibile. Io adesso ti ringrazio e rimanderei appunto, possiamo sentirci più avanti. Ti saluto, certo, forse con una nota così dubitativa, non voglio essere polemica, ma sicuramente dubitativa sul fatto che comunque ci chiediamo poi se serva a qualcosa chiedere pene molto molto aspre o il massimo della pena contro gli stupratori, nel momento in cui poi sappiamo che lo stupro è un fenomeno sociale, culturale fortissimo, e che appunto invece il carcere non serve a nulla da questo punto di vista. Ma questo così aprirebbe innumerevoli discussioni. Invece io con questo voglio concludere, se sei d'accordo, e risentirci prossimamente. Dico veramente che sono d'accordo con te, nel senso che secondo noi solo una mobilitazione, una rivoluzione delle donne, qualcosa. Il problema è che però in questo percorso noi insomma è importante anche imporre con la lotta, no, anche dei risultati, delle tappe che aiutano poi la lotta, non perché ci illudiamo assolutamente, ma aiutano. E tipo l'Aquila, aver dato 8 anni a uno stupratore quasi assassino, diciamo, non è certo una bella cosa. Certo, se avesse avuto molto di più non è che sarebbe cambiato, però è chiaro che in quel caso voleva dire che la mobilitazione delle donne aveva pesato, insomma, no? E noi vogliamo anche farlo pesare. No, infatti sicuramente quello che ci riguarda appunto è la mobilitazione delle donne, la solidarietà con le donne che decidono di andare in tribunale a denunciare, a portare in tribunale i propri stupratori, perché comunque è un modo per dare visibilità a questo fenomeno sociale che esiste. Questa guerra di bassa intensità è una parola, sono parole che uso anche io, che usiamo anche noi, esattamente. Va bene, grazie. Saluto a tutti. Un saluto, ciao.